l'appello è rivolto non solo al primo ministro Draghi, ma anche ai segretari e direttivi dei partiti che partecipano al governo, ovviamente noi ci riferiamo a quelli dell'area di centrosinistra, e alle segreterie dei sindacati confederali e dei sindacati autonomi. È chiaro che purtroppo alcuni partiti, nel contribuire al programma in elaborazione da parte del primo ministro Draghi, hanno aperto le porte alla possibilità di procedere sulla strada dell'autonomia differenziata. Alcuni esponenti del centrodestra, della Lega in particolare, lo hanno posto come una rivendicazione importante, e l'attuale ministro, la onorevole Gelmini, preposta alle autonomie regionali, si è sempre dimostrata per una forte determinazione a procedere sul tema dell'autonomia differenziata, sostenendo addirittura che sarebbe benefica per le regioni del Mezzogiorno. Quindi abbiamo moltissima preoccupazione al riguardo, speriamo che all'ultimo secondo ci si renda conto degli danni estremi che il regionalismo già attuato ha portato, soprattutto in relazione all'epidemia Covid, e al fatto che l'opinione pubblica queste cose non solo le ha sofferte, le ha anche capite, e quindi su un governo che adottasse queste misure cadrebbe un enorme discredito. Faccio un appello in questo caso particolare anche ai governanti della nostra regione, il Bonaccini e il Donini, che come tutti sanno hanno fatto da ultimo una sinergia con Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia per l'acquisto dei vaccini solo per queste quattro regioni, e chiaramente calpestando ogni istanza di solidarietà verso gli altri cittadini d'Italia. Questa potrebbe già essere un'anticipazione di quello che potrebbe comportare l'autonomia differenziata, che chi anche più potere, diciamo così, economico negoziale può accaparrarsi prima delle cure. Non c'è dubbio su questa cosa, ovviamente si prenderà posizione importante anche associazioni della nostra regione, compreso il comitato contro ogni autonomia differenziata. Io direi che è un modo di comportarsi assolutamente non solidaristico, e contro il quale dovrebbe prendere posizione anche quelle componenti sindacali che hanno una qualche tendenza a sostenere questo come una forma possibile. Io sono non solo preoccupato ma anche scandalizzato, insomma, che si vada avanti in questa direzione. Lei prima faceva riferimento ai danni che già ha provocato questa specie di autonomia che riguarda già le regioni, eppure qualche giorno fa, prima della formazione del nuovo governo, Matteo Salvini voleva proporre a Mario Draghi il modello Lombardia, che insomma... Una cosa non so se è più drammatica o più ridicola, insomma, io penso che dovremmo tutti a sinistra sottolineare questa proposta di Salvini per dimostrare a tutti quanto siano incapaci. Segnalo che il modello Lombardia sta creando anche molti morti in rapporto al fatto che la privatizzazione dei servizi sanitari ha comportato la distruzione della sanità pubblica, della sanità territoriale. Direi che siamo oltre ogni misura di responsabilità, non c'è da dire altro, non so come altro dire. Io penso che chi sta al governo con Salvini dovrebbe almeno portare a casa il fatto che lui taccia su queste politiche razziste che usa in maniera strumentale, sostanzialmente. Alcuni osservatori hanno avuto modo di sottolineare che nella squadra di governo tre quarti dei ministeri sono in mano a persone del nord. Quindi, come dire, visto che le regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata sono tutte e tre del nord, il rischio comunque c'è. Il rischio è molto alto. Purtroppo vorrei segnalare a tutti che il problema non è solo di fare gli interessi del nord contro gli interessi del sud in maniera indistinta. Il grandissimo problema è che anche i ceti deboli, i fragili, i disoccupati, gli estratti del mondo del lavoro più debole verrebbero a patire molto dell'adozione dell'autonomia differenziata, perché è un'autonomia differenziata che si legge come privatizzazione dei servizi, e questo non porta nulla di buono per questi strati che comunque sono sempre chiamati a sopportare la crisi. Quindi l'autonomia differenziata è un disastro anche per la gran parte delle popolazioni del nord. Questo bisogna tenerlo presente e dirlo con franchezza.